sono giovane, dove sono giovane, la luce accesa grande in camera tua. No, le stazioni dietro, no? Chiudi la porta di mezzo qua, così non si ricatta, dov'è Paolo? Vabbè, allora non si deve andare. Io ti dico che è un... Sì, se sono sento, niente, non è capitella,